5A. Ascolta e rispondi. Perché non parli? Parlerei, ma non ho niente da dire. Perché non studi? Studierei, ma ho mal di testa. Perché non resti ancora? Resterei, ma ho fretta. Perché non continui a lavorare? Continuerei, ma sono stanco morto. Perché non aspetti ancora? Aspetterei, ma ho un appuntamento tra poco. Perché non telefoni a casa? Telefonerei, ma ho il cellulare scarico.